Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da K. Un saluto. Aspetta. E un saluto da... Non ce la faccio. È morto. Dall'oltretomba. Un saluto... Dall'oltretomba pavese. Tutto bene? No. Non soffiarmi in... Ma perché tu hai un problema, secondo me, è un problema l'asma. Di respirazione. Ah, è l'asma questo. Un po' di asma, mia nonna soffriva d'asma. Il Ventolin. Devo provare il Ventolin. Ok. Vai. No, ok, va, niente, è finita. Abbiamo già finito. Non ce la fai. C'hai tutti gli occhi lacrimati. Lo so. Va bene. Allora, di cosa dobbiamo parlare oggi? Dei tic nervosi dei bambini. I tic. Dai, sì, concentrati un attimo. I tic nervosi nei bambini. Ecco, allora, tu per esempio quando eri bambino avevi dei tic. Ma diciamo che cosa facevo? Mi mangiavo le unghie come adesso. Quindi ecco, i tic sono rimasti. Allora, il discorso dei tic è che sono normalissimi nei bambini, basta che durino poco. Quindi ecco. Genitori che avete i bambini che fanno movimenti inconsulti con la testa oppure con le gambe. Se non sono turettici, la cosa durerà poco. Solo se non sono turettici. Sì, se sono turettici invece cominceranno anche a dire parolacce, a sputare, a fare dei gesti di questo genere per tutta la vita. Invece io continuo a mangiarmi le unghie, quindi dovrei andare da uno specialista. Capito? Questo è il discorso. Però tranquillizziamo i genitori. L'hai già detto. Quindi tranquilli, però, voglio dire, basta vomitando così. Non è che vabbè, ho capito. C'è l'asma, ma le infatti cose, bastava che io questa volta me ne stessi zitto. Invece, infatti, secondo me. Vabbè, dai. No, facciamo così, tranquillizziamo in questo senso. Non importa i tic, pensate che c'era gente come Voltaire, gente come lo zar Pietro il Grande, ma che ne sai, avevano dei tic, Draghi, però erano comunque dei grandi uomini, Voltaire, Pietro il Grande. Voltaire cosa faceva? Faceva continuamente un ruttino, aveva, come hai capito, a bassa voce. Un basso continuo, cioè andava vicino a Voltaire, maestro, facile. Dica qualcosa, lui... Ho capito. E invece uno di fianco. Invece, lo zar Pietro Grande invece quale tic aveva? Aveva il tic degli occhi strabuzzati, sai quando... E quini, cioè che ti... E quindi sì, un po'... Lo sguardo da cavallo. Sì, un pochino, sì. Che a volte invece sono problemi di tiroide. Ah, ecco. Invece, no, ma invece lui aveva... Quello, gli veniva all'improvviso, capito, lo sguardo smarrito. Anche terribile allo stesso momento. Si spaventavano tutti. E poi invece tornava a essere il Pietro il Grande. Vabbè, anche Cossiga, ti ricordi, aveva un tic anche lui, il tic del roditore. Lui scopriva i denti davanti all'improvviso, poi tornava alla sua consueta fisionomia di Francesco Cossiga. Vogliamo andare avanti così. Non so, cosa mi dici di Peppino di Capri? Beh, Peppino, Peppino col suo canto nervoso, i suoi scatti volontari della testa. Peppino ha originato lui le prime ricerche nel campo dei radiomicrofoni. Non dire, perché solo quelli lì possono seguire i movimenti del capo. No? Poi tra l'altro radiomicrofoni, ma anche applicati al capo di Peppino di Capri. Certo, sì. Perché sennò lui col microfono fisso non si riesce a riprendere, lui canta e va fuori fuoco. No? Certo, invece con tipo the tick version of Peppino di Capri. Come on, Peppino. The tick version of Peppino di Capri. Di Capri. E ora, bambini, ricreazione! Oh, ragazzi, datemi retta che... Bambino Alberto, ciao! Diamo retta, va bene, cosa c'è? Ecco, lasciamo stare i convenevoli. Appunto. Allora, invece questa, vi devo dire una roba forte. Ho trovato il modo per non andare all'asilo. Ma non so io, tutti! Cioè, far chiudere l'asilo a tempo indeterminato. Vabbè, ma questi sono... Ma cosa ti sembra una bella cosa? Manco fossi in una fabbrica a lavorare dal mattino alla sera. Una miniera dove cosa ti sfruttano. C'entra? Cosa c'entra? Dai, allora, ma è tutto relativo, no? Cioè, per me andare all'asilo è come stare alla catena di montaggio. Va bene. Ma sì, sono le stesse cose. I disegnini, i lavori di gruppo, la messa con il monomenù. L'ora del riposino, cioè, è tutta una ripetizione, vabbè, ma non è un problema, i giorni devono essere uguali. Guarda che i bambini devono essere abituati a una certa ritualità, la routine, e abitudine. Mamma mia, quante storie! Cosa storie? Non è mica la roba gli operai sfruttati, è per il vostro bene, no? Vabbè, poi comunque, un po' di rispetto per gli operai. Comunque, sì, vabbè, lasciamo stare. La cosa importante è che ho trovato il sistema per dare un segnale forte. E quale segnale forte vorresti dare? Topi. Cosa sì, dici? Perché sarebbe una novità. Ma dovreste anche saperlo che siete informati. All'asilo, Guarda che giorni fa in Veneto, a Rovigo, c'è un gruppo di genitori che non ha fatto entrare a scuola i figli perché c'erano i topi, era infestato. Che sei topi? Hanno trovato escrementi, libri e pennelli tutti rosicchiati. Anche qualche topolino che scorazzava per Ma qua siamo all'asilo Stoppani a Milano, cosa c'entra Rovigo? Dai, Rovigo è Rovigo, no? Ma allora, siete ingenui e lo fate apposta. Cosa? Bello, se qui all'asilo non ci sono topi, basta procurarselo, no? Ma come sarebbe a dire? Anzi, guarda, ne basterebbe anche uno solo. Un topo. Cioè, una volta trovato il topo disponibile, non resta che farlo entrare all'asilo. Quindi sogni di fare un sabotaggio, una specie di, come dire... Sabotaggio terroristico. Ma un sabotaggio fatto bene, Fatto bene. Cioè, perché visto che il top è uno solo, sì, per avere l'effetto desiderato, bisogna prepararlo prima. Bisogna preparare il topo, ma noi stiamo anche ad ascoltarlo. Ma infatti, direi voglio spiegare tutto. Allora, visto che la pistola fumante. La prova della presenza dei topi, no? Evidenza di reato. Sì, vabbè. Visto che le prove sono gli escrementi e i rosicchiamenti, e noi abbiamo un topo solo, che lascia poche tracce. Potresti aiutarlo tu, ti metti a rosicchiare le cose, lasci le cacchette. Qualcosa di meglio interveniamo direttamente su. Interveniamo direttamente sul roditore, no? Con cibo e doping. Vabbè, ma io. Basta. Ascoltate. Vado a giocare a Lippa io intanto. Per massimizzare la performance del topo. Ma come parla? Io non. E ci vanno cibo e doping, no? Cosa vuol perché? Che devi dragarlo. Lasciatemi finire. Allora, prima di introdurlo all'asilo, bisogna rimpinzarlo di cibo in modo che produca una grandissima quantità di escrementi, no? Che deve cagare. E poi il doping per farlo rosicchiare come un branco di topi infuriati, che deve essere Poi citato, no? Citato. Così non ci sarebbero dubbi, no? Su un branco di topi. Tutto citato. E quindi scatterebbe l'indignazione dei genitori. E quindi poi. Proteste, trappole, veleno! Veleno. Poi la settimana di vacanza non c'era nessuno, no? Capito. Allora, è meglio fare coi pidocchi. Sì, ma poi io sono contrario, molto contrario al doping sugli animali, scusate, ma è una cosa che non si fa. Meglio sugli esseri umani consenzienti, allora si può fare, sì, gli animali consenzienti come fai a sapere? Non sono consenzienti. Ma scusate cosa? Per chiudere l'asilo. Cioè, non posso usare un essere umano dopato. Devo usare un topo dopato. Ma dove lo trovi sto topo? Anche tu hai paura dei topi. Volevo poi... Mi toglie le parole di bocca. Volevo giusto chiederlo a voi. Ma che ne sappiamo noi i topi dopati? Niente. Anche normali. Cioè no, da dopare. Ci siamo anche smettere. Sì, ma infatti adesso voglio dire i topi da dopare. Vabbè, voi che siete fate parte del jet set. Magari riuscite a trovare qualche altro animale, no? Ma che c'è? Tipo lontra, furetto, pitone, quegli animali che tengono quelli che di Bambino Alberto, telefona alla bambina Brambilla. Lei può aiutarti, adesso ha tanto tempo libero, ama gli animali, giusto? Infatti, ho visto un film l'altra sera, si chiamava Anaconda. Sì. E c'era anche la Brambilla. Ecco, che veniva inghiottita dall'anaconda, che poi la risputa tutta un po'. Un po' digerita, no? In realtà non era la Brambilla, era John Voight. Un film che non si capisce come mai abbia fatto sto film. Perché. Ma allora magari. Se viene la Brambilla all'asilo dovrò chiuderlo per disinfestazione, no? Ma perché? Perché la Brambilla la disinfestazione da Brambilla, no? Ma non era un topo? La Brambilla? Ma non lo so, sono robe che dici tu. Ma Drago, andiamo via, ma smettila. La disinfestazione da Brambilla. E beh, allora, quella faccina del topolino se riuscite a trovarmelo, me lo c'è in casella. Vi avvertite, avete un post-it. Capà Drago, tu che sei di campagna, tu un topolino lo trovi, no? Ma non c'è. E la Brambilla? No, lei è il pitone, però la Brambilla comunque, a parte quando non parla, è tipo la signora Milfia, no? Tikete takiti tak, takumi takami, mi takati takati, tikete takiti tak, takiti tito tak, tikete takiti tak, tikete takiti tak, takumi takami, mi takati takati, tikete takete tak, takete tito tak. Venerdì 145, a domani. Tic-tac. Tic-tac. Mi è venuto questo tic di dire tic-tac.